ad alta voce. Andrea Pennacchi legge Il sergente nella neve di Mario Rigoni Sterna. 14ª puntata. Tornato fra i miei compagni, appendiamo il favo di miele al ramo di un albero e un pezzo per uno ce lo mangiamo tutto. Io poi mi guardo attorno come risvegliandomi da un sogno. Il sole scompare all'orizzonte, guardo l'arma e i due caricatori che ci sono rimasti. Guardo per le strade deserte del paese e mi accorgo che da una di esse avanza verso di noi un gruppo di armati. Sono vestiti di bianco e procedono con sicurezza. Sono nostri, sono tedeschi, sono russi. Giunti a qualche decina di metri da noi si fermano e ci guardano. Sono incerti anche loro. Poi sentiamo che parlano. Sono russi. Ordino in fretta di seguirmi e mi butto fra le isbe e gli orti. Antonelli e Menegolo mi vengono dietro con l'arma. Tutti mi guardano perplessi, come se aspettassero di vedermi compiere un miracolo. Mi rendo conto che la situazione è disperata, ma non ci passa per la testa di darci prigionieri. Un alpino di non so quale compagnia ha un fucile mitragliatore, ma non munizioni. Un altro mi si avvicina e dice: ho più di 100 colpi. Sporgendomi di sopra uno steccato, sparo un paio di caricatori con il mitragliatore a un gruppo di russi poco lontani e poi passo l'arma a un alpino. Spara, gli dico. Da sopra lo steccato l'alpino spara, ma poi mi cade rantolando ai piedi, colpito alla testa. Riprendo a sparare con il mitragliatore e i russi si diradano. I 100 colpi sono già finiti. Anche Antonelli ha finito le munizioni e ora smonta la pesante e ne disperde i pezzi nella neve. La nostra compagnia perde così la sua ultima arma. Siamo meno di una ventina di uomini. Animo, dico, preparate tutte le bombe a mano che avete. Gridate, fate baccano e poi seguitemi. Sbucchiamo fuori dallo steccato. Siamo in 4 gatti, ma facciamo baccano per 3 volte tanto e le bombe fanno il resto. Non so se siamo stati noi ad aprirci la strada o se i russi ci abbiano lasciato passare. Il fatto è che ci siamo messi in salvo. Raggiungiamo di corsa la scarpata della ferrovia e ci infiliamo in un condotto che l'attraversa. Ma come metto fuori la testa dall'altra parte, vedo che lì davanti la neve è coperta di cadaveri. Una raffica mi passa rasente al muso. Indietro! Indietro! Grido. Ritorniamo fuori l'uno dopo l'altro da dove siamo entrati. Mi getto in una piccola balca e sempre correndo ne risalgo il fondo. I miei compagni mi seguono. Costeggio una siepe e sento arrivare dei colpi alle nostre spalle. Giungiamo alle isbe di dove al mattino tiravano su di noi con gli anticarro. Ci fermiamo un attimo a riprendere fiato e a guardarci. Ci siamo ancora tutti. Dall'isba più vicina vedo uscire il tenente Pendoli. Rigoni! Mi chiama. Rigoni, venite qua a prendere il nostro capitano che è ferito. Ma gli altri, chiedo, dove sono? Non c'è più nessuno, risponde il tenente Pendoli. Andiamo a prendere il capitano, dico ai miei compagni. Ma dalle isbe attorno e dalle siepi, dagli orti, vengono fuori sparando decine e decine di soldati russi. Molti dei miei compagni cadono, altri corrono verso la breve scarpata della ferrovia, raggiungono le rotaie e lì ricevono un'altra raffica come una grandinata. Ne cadono ancora 2 o 3. Io mi precipito per unirmi ai rimasti. Le pallottole battono sulle rotaie con rumore di tempesta e mandano scintille, ma riesco a rotolare dall'altra parte. Sono ultimo dietro agli scampati che si arrampicano sulla neve. La scarpata della ferrovia ci divide dai russi. Passo vicino a un cannone anticarro e mi fermo per cercare di toglierne l'otturatore e renderlo inservibile. Ma intanto i russi riappaiono sulla scarpata e mi sparano contro. Allora riprendo a correre in su come posso, sprofondando di continuo nella neve sino al ginocchio. Sono allo scoperto sotto il fuoco dei russi e a ogni passo che faccio arriva un colpo. Adesso è nell'ora della nostra morte, dico tra di me come un disco che giri a vuoto. Adesso è nell'ora della nostra morte, adesso è nell'ora della nostra morte. Sento qualcuno che geme e invoca aiuto. Mi avvicino. È un alpino che era il mio caposaldo sul Don. È ferito alle gambe e al ventre da scheggia d'anticarro. Lo circondo con le braccia sotto le ascelle e lo trascino, ma faccio troppa fatica e me lo carico sulle spalle. I russi ci sparano contro con l'anticarro. Sprofondo nella neve, avanzo, cado e l'alpino geme. Non ho proprio la forza di continuare a portarlo. Riesco tuttavia a portarlo dove i colpi non arrivano. Del resto, i russi smettono di sparare. Dico all'alpino di provarsi a camminare. Egli tenta inutilmente e ci fermiamo dietro un mucchio di letame. Resta qui, gli dico. Ti mando a prendere con la slitta. E fatti coraggio, perché non sei grave. Io poi non mi sono ricordato di mandar giù la slitta. Ma i portaferiti della nostra compagnia sono giusto passati di là e lo hanno raccolto. Ho saputo in Italia che egli si era salvato e un gran peso mi è caduto dal cuore. Lo ritrovai un giorno, finito tutto, a Brescia. Non lo riconobbi, ma lui mi vide da lontano, mi corse incontro, mi abbracciò. Lo ricordi, sergente Maggiù? Io non lo riconoscevo e lo guardavo. Lo ricordi? Ripeteva e si batteva con la mano sulla gamba di legno. Va tutto bene ora? E rideva. Non ricordi il 26 gennaio? Allora mi ricordai e tornammo ad abbracciarci con tanta gente attorno che ci osservava senza capire. Ora, mentre continuavo da solo il mio cammino nella neve, sento d'un tratto un trambusto e vedo la massa nera della colonna precipitarsi giù per il pendio. Ma che diavolo fanno? Penso che il fuoco dei russi li sterminerà. Perché non sono venuti giù prima? Ma vi sono di nuovo degli aeroplani. Mitragliano e lanciano spezzoni. E di nuovo come stamattina. In più, al paese sparano con gli anticarro, i mortai. Alcuni panzer tedeschi scendono lentamente, guardinghi. Uno è colpito e si ferma, ma continua a sparare con il cannone. Gli altri mi passano vicino. Gruppi di soldati tedeschi li seguono e io mi unisco a loro. Così arrivo ancora una volta alle prime case. Spariamo coi fucili da dietro i carri. Spiegandomi accenni, cerco di far avanzare un panzer fin dove si trova il capitano ferito. Do loro a intendere che si tratta di un ufficiale superiore. Dopo molte esitazioni, i tedeschi cedono alle mie insistenze. Facciamo pochi metri nella direzione che indico loro e un colpo di anticarro frantuma il periscopio. Il panzer è costretto a fermarsi e dobbiamo rinunciare. Non siamo in numero sufficiente per addentrarci nel paese senza l'appoggio del carro. Intanto è cominciata la sera. Mi metto dietro alle macerie di una casa sparando contro i russi che passano per gli orti. Sono rimasto solo. 20 metri più a destra vi è un soldato tedesco che si avvicina, strisciando cauto sulla neve a due russi appostati dietro un muricciolo. Egli poi lancia due granate su di loro. Io allora corro fino a una casa più avanti. Dal marciapiede in faccia un soldato russo mi vede e svolta la cantonata per poi prendermi di mira. Io dal mio riparo e lui dal suo ci scambiamo dei colpi di fucile. Un capitano dell'artiglieria alpina che mi viene incontro cade, colpito al petto, mentre sta per rivolgermi la parola. Ha uno sbocco di sangue che mi chiazza le scarpe e i calzettoni. Arriva il suo attendente, arriva un altro ufficiale, piangono su di lui che rantola. Appena poi è morto, l'attendente gli toglie dalla tasca il portafogli e dal polso l'orologio. Io non ne posso più dalla stanchezza, vado a sedermi dietro un piccolo argine. Un sottotenente mi si avvicina gridando: «Vigliacco, che fai lì? Vieni fuori!» Io non lo guardo nemmeno. E lui finisce che si mette a sedere lì vicino a me e se ne resta lì anche dopo che io me ne vado. Vengo a sapere che il tenente colonnello Calvo dell'artiglieria alpina è stato colpito. Lo cerco. Il suo attendente gli sorregge il capo e piange. Il colonnello ha gli occhi velati e già forse non vede più nulla. Mi parla, credendomi il maggiore Bracchi. Non ricordo le parole che mi disse. Ricordo solo il suono della sua voce, l'affanno cagionato dalla ferita e lui sulla neve. Qualcosa di grande era nel suo aspetto e io mi sentivo timido e stupito. Intanto i carri dei tedeschi sono tornati ad avanzare. Alpini e tedeschi si mettono dietro. Le pallottole battono sulla corazza dei panzer e schizzano attorno a noi. Su un carro è accovacciato il generale Reverberi che ci incita con la voce. Poi egli scende e cammina da solo davanti ai carri impugnando la pistola. Da una casa sparano con insistenza. Da quella sola casa. «Ci sono ufficiali!» grida il generale verso di noi. «Ufficiali forse ve ne sono, ma nessuno esce!» «Ci sono alpini!» grida ancora. E allora esce un gruppetto da dietro i carri. «Andate in quella casa e fatela finita!» ci dice. Noi andiamo e i russi se ne vanno. È notte fatta. La colonna si è riversata nel paese e tutti cercano un posto per passare la notte al caldo e se è possibile mangiare qualcosa. Che confusione ora. Sembra una fiera. Incontro alcuni genieri, chiedo loro di Rino. Lo hanno visto ferito leggermente a una spalla durante il primo assalto. Da allora non sanno più nulla. Lo chiamo, lo cerco senza trovarlo. Incontro il capitano Marcolini, il tenente Zanotelli del mio battaglione. Con questi mi metto vicino alla chiesa e chiamiamo: Vestone! Vestone! Adunata! Vestone! Ma potrebbero rispondere i morti. Si ricorda Rigoni il 1° settembre? Mi dice piangendo il tenente. È come allora. È peggio, dico. Ai nostri richiami risponde Baroni dei mortai e viene con un gruppetto del suo plotone. Hanno ancora un tubo di mortaio, nessuna bomba, nient'altro. Di tutto il Vestone riusciamo a radunarci in circa una trentina. Le isbe sono tutte occupate e prendiamo posto nelle scuole, ma qui i vetri sono rotti e non c'è paglia e l'impiantito è di cemento. Ci sdraiamo, ma non è possibile dormire. Ci congeleremmo. La Ecia, alpino della mia compagnia, ha trovato chissà dove delle gallette, me ne dà una. Rosicchiamo assieme. Bodei, che mi è vicino, trema dal freddo. Ci alziamo e usciamo. Busso a un'isba. Viene alla porta un soldato tedesco con la pistola spianata e me la punta al petto. Voglio entrare, dico. Gentilmente, con la mano, gli sposto la pistola e gli rido in faccia. Sconcertato, la rimette nel fodero e mi chiude la porta sul viso. Entriamo in una stalla, accendiamo un piccolo fuoco con degli sterpi. Ci riscaldiamo, ma la parte che non guarda il fuoco è gelata. I muli ci guardano con le orecchie basse. La testa ci ciondola di qua e di là. Lentamente mi addormento con la schiena appoggiata a un palo. Questo è stato il 26 gennaio 1943. Cari amici mi hanno lasciato in quel giorno. Di Rino, rimasto ferito durante il 1° attacco, non sono riuscito a sapere nulla di preciso. Sua madre è viva solo per aspettarlo. La vedo tutti i giorni quando passo davanti alla sua porta. I suoi occhi si sono consumati. Ogni volta che mi vede, quasi piange per salutarmi e io non ho il coraggio di parlarle. Anche Raul mi ha lasciato quel giorno. Raul, il primo amico della vita militare. Era su un carro armato e nel saltar giù per andare ancora avanti verso Baita, ancora un poco, prese una raffica e morì sulla neve. Raul, che alla sera prima di dormire cantava sempre Buonanotte mio amore e che una volta al corso sciatori mi fece quasi piangere leggendomi il lamento della Madonna di Jacopone da Todi. E anche Giovanin è morto. Ecco Giovanin. Ci sei arrivato a Baita. Ci arriveremo tutti. Giovanin è morto, portandomi le munizioni per la pesante quando ero giù al paese e sparavo. È morto sulla neve anche lui, che nel ricovero stava sempre nella nicchia vicino alla stufa e aveva sempre freddo. Anche il cappellano del battaglione è morto. Buon Natale, ragazzi, e pace. È morto per andare a prendere un ferito mentre sparavano. State sereni e scrivete a casa. Buon Natale, cappellano! Anche il capitano è morto. Il contrabbandiere di Valstagna. Aveva il petto passato da parte a parte. I conducenti quella sera lo misero su una slitta e lo portarono fuori della sacca. Morì all'ospedale di Kharkov. Sono andato a casa sua quando ritornai in primavera. Ho camminato attraverso i boschi e le valli. Pronto? Qui Valstagna. Parla Beppo. Come va, paese? E la sua casa era vecchia e rustica e pulita come la tana del tenente Cenci. E soldati del mio plotone, del mio caposaldo, quanti ne sono morti quel giorno. Dobbiamo restare sempre uniti, ragazzi. Dobbiamo restare sempre uniti, ragazzi, anche ora. Il tenente Moscioni si ebbe bucata una spalla, poi in Italia la ferita non poteva chiudersi. Ora è guarito della ferita, ma non delle altre cose. Oh no, non si può guarire. E anche il generale Martinat è morto quel giorno. Lo ricordo quando in Albania lo accompagnavo per le nostre linee. Io camminavo in fretta davanti a lui perché conoscevo la strada e mi guardavo indietro per vedere se mi seguiva. Cammina, cammina pure in fretta, caporale, ho le gambe buone io. E anche il colonnello Calbo, che era così bravo con i suoi artiglieri della 19 e della 20, E anche il sergente Minelli era ferito lì nella neve. «El Meschet!» diceva e piangeva. «El Meschet, Juanin!» Troppo pochi siamo arrivati a Baita, dopo tutto. Nemmeno Moreschi è tornato. «Possibile? Una capra di 7 quintali? Porca la mula, sempre Macedonia!» E neanche Pintossi. Il vecchio cacciatore è arrivato a Baita a cacciare i cotorni. E sarà morto pure il suo vecchio cane ora. E tanti altri dormono nei campi di grano e di papaveri e tra le erbe fiorite della steppa, assieme ai vecchi delle leggende di Gogol e di Gorky. E coi pochi che siamo rimasti dove siamo ora. Quando mi svegliai, trovai che le scarpe mi si erano bruciate ai piedi. Sentii un rumore di gente che si preparava a partire. Non trovai più nessuno della mia compagnia né del battaglione. Nel buio persi anche Bodei, rimasi solo. Cercavo di camminare più in fretta possibile perché i russi potevano ritentare di agganciarci. Era ancora notte e c'era un gran trambusto per il paese. Feriti gemevano sulla neve nelle isbe, ma io ormai non pensavo più a niente, neanche alla baita. Ero arido come un sasso venivo rotolato dal torrente. Non mi curavo di cercare i miei compagni, dopo nemmeno di camminare in fretta. Proprio come un sasso rotolato dal torrente. Più niente mi faceva impressione, più niente mi commuoveva. Se fosse accaduto di combattere ancora, sarei andato avanti, ma per conto mio, senza curarmi di quelli che mi avrebbero seguito o sorpassato. Avrei fatta la battaglia per mio conto, personalmente, isolato, da isba a isba, da orto a orto, senza ascoltare comandi, senza darne, libero di tutto, come per una caccia in montagna, da solo. Avevo ancora 12 colpi per il moschetto e 3 bombe a mano. Ve ne erano pochi, forse, in tutta la colonna che avevano tante munizioni quante ne avevo io. Un'altra giornata di cammino sulla neve. Le scarpe bruciate vanno in pezzi e me le saldo attorno ai piedi con del filo di ferro e stracci. Camminando, il cuoio secco mi ha rotto la pelle sotto il malleolo, ha formato una piaga viva. Le ginocchia mi dolgono, a ogni passo che muovo fanno cric, crack. Mi viene la dissenteria. Cammino senza dire una parola con nessuno per chilometri e chilometri. Ora la colonna procede a monconi. I più validi camminano in fretta, gli altri come possono. Io non sono tra questi, ma neanche tra i più validi ormai. Vado per conto mio. Un altro giorno di cammino sulla neve. Lungo la pista sono abbandonati i cannoni dell'artiglieria alpina. È giusto, è inutile portarli. È giusto che i muli siano adoperati per i feriti. Capita ogni tanto di sentire delle brevi discussioni tra artiglieri alpini e tedeschi. Dei tedeschi chissà come erano riusciti a impossessarsi dei nostri muli, che ora certamente valevano più delle loro macchine. Soltanto noi avevamo muli, ma gli alpini e gli artiglieri discutono poco. Fermano i muli e fanno scendere i tedeschi. Si riprendono le brave bestie e van via. Hanno i loro paesani feriti da caricarci sopra, di fronte alla pacatezza degli alpini. L'ira dei tedeschi era ridicola. Era molto lunga quel giorno la marcia. Non si vedeva nessun paese da nessun lato e bisognava camminare. Si mangiavano manciate di neve. Bene la notte, ancora non ci si fermava né si vedeva un paese. Finalmente lontano una luce e non pareva mai di arrivarci. Lo potete immaginare voi, quanto era lontana quella luce e quanta neve bisognava calpestare per arrivarci. Fu interminabile nella notte. Era un villaggio. Non so dove andai a dormire, né con chi, né se mangiai. Alla mattina, quando ripartii, c'era il sole. La maggior parte erano già andati. Ero con gli ultimi. Le isbe erano vuote, i fuochi si spegnevano. Ricordo che entrai in un'isba. Per terra c'erano delle bucce di patate arrostite tra la cenere. E le mangiai. Ero sempre solo. Una sera incontrai in un'isba dei soldati del mio battaglione. Mi riconobbero. Uno si era congelato alle gambe. Alla mattina, quando ripartimmo, aveva le gambe nere per la cancrena e piangeva. Non poteva più venire con noi, né si trovò una slitta per caricarlo. Lo raccomandai alle donne dell'isba. Piangeva, e anche le donne piangevano. «Addio, Rigoni!» mi disse. «Ciao, Sergent Maggiù!» Io sono sempre solo. Un giorno trovo sulla neve una tavoletta gialla. La raccolgo e la mangio. Sputo subito. Chissà che diavolo è. Lo sputo è giallo, ha un gusto tremendo, sputo e sputo giallo, mangio neve e sputo giallo. Dove cade lo sputo, la neve attorno si fa gialla.